Io arrivo in questa fondazione da venerdì, quindi ho superato una selezione. Per superare la selezione ho studiato tutti quelli che sono stati gli atti fondativi della fondazione, e il mio sarà un compito tecnico, un mandato tecnico, è abbastanza chiaro. Oggi vedrete nella presentazione della fondazione un calendario con dei numeri che semplicemente vi dico sono 850 alloggi che verranno appunto messi a disposizione per chi ne ha bisogno, e questo numero si raggiunge attraverso due tipologie, tra proprietà private e proprietà pubblica. Proprietà pubblica, vedrete, snoccioleremo tutti i numeri. La vera sfida che mi sento è quello di aprire questo numero degli appartamenti privati che vengono dati in gestione alla fondazione per gli affitti calmierati. Quindi insomma, per rispondere a un'emergenza abitativa che sappiamo comunque esistere a Bologna. Assolutamente, un'emergenza è un problema sociale. Devo dire che nel mio desiderato è quello di impegnarmi a far sì che il problema dell'alloggio sia un vissuto come un'emergenza sociale e non come un problema di ordine pubblico. Questo è quello che mi sento di dire in questa giornata.